Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Immaginate una struttura realizzata interamente in vetro, alta 13 metri, che riprende la sagoma della cascina romana. In questa struttura entra tutta la luce perché è tutto trasparente, però è avvolta da una pelle metallica che consente una completa privacy a coloro che ci lavorano all'interno. Questa struttura è la riproposizione della mitica cascina dell'orefice che esisteva a Valenza Po. Valenza Po, capitale dell'arte orafa. E a Valenza Po, nella cascina dell'orefice completamente ristrutturata e ricostruita, sorge la nuova manifattura di gioielleria di Bulgari, il più famoso, il più importante produttore di gioielli che c'è in Italia, in Europa e nel mondo. Oggi abbiamo qui ospite l'amministratore delegato di Bulgari, il signor Jean-Christophe Babin. Buongiorno. Buongiorno Filippo. Che ci presenta questo progetto della manifattura di gioielleria con tutte le implicazioni che ha, perché intanto c'è un'implicazione dal punto di vista delle assunzioni, perché a Valenza oggi lavorano 300 persone che nel tempo diventeranno 700. Poi c'è un'implicazione su come cambia la fabbrica e come cambia la manifattura orafa, e poi c'è un'implicazione importante per quella che è la struttura e la strategia che il gruppo Bulgari si è dato in Italia. Ma ci dica, Babin, perché avete deciso di fare questo progetto? Allora, innanzitutto la Bulgari è già molto presente in Piemonte, regione nella quale abbiamo oggi due stabilimenti, uno a Valenza e uno a Sovungelo, che sono due stabilimenti da una parte storici, d'altra parte complementari in termini di mestieri, però che in entrambi i casi sono arrivati ad un livello di saturazione. Di saturazione, assolutamente. Quindi per noi era difficile immaginare ampliare questi due siti esistenti, e ci siamo detti che, dato le ambizioni di Bulgari in termini di integrazione dei mestieri, in termini di potenziale di crescita che noi vediamo ad un orizzonte 5-10 anni, era probabilmente molto più efficiente di creare ex novo da un nuovo sito, sempre ovviamente a Valenza per motivi ovvi, un stabilimento totalmente concepito per i nostri fabbisogni di oggi e dei prossimi anni, che potesse anche integrare i due stabilimenti esistenti, essendoci delle sinergie ad essere tutti sullo stesso sito, piuttosto che oggi separati da una quarantina di chilometri. Certamente, Bulgari è stata comprata nel 2012 da LVMH, la famiglia è uscita dall'azionariato, anche se alcuni esponenti della famiglia Bulgari hanno incarichi manageriali nell'area gioielli di LVMH, che ha ritenuto utile continuare ad avvalersi della loro collaborazione. Il nuovo amministratore delegato della gestione francese di LVMH di Bulgari è Babin, che però è da una vita in Italia. Tutto questo si lega anche al fatto che LVMH vuole far crescere Bulgari, perché voi volete crescere molto, cioè sotto LVMH Bulgari crescerà. Non solo vogliamo crescere molto, perché l'azienda ha un potenziale che è notevole, non solo in Europa, però ovviamente in mercati asiatici piuttosto che in America. Il secondo motivo è che noi vogliamo produrre molto all'interno. È molto importante, secondo noi, di promuovere i nostri mestieri, di portare avanti... Ma perché prima c'era un outsourcing di produzione? No. Allora, nei gioielli diciamo che è abbastanza consueto nell'industria dei gioielli di avere un doppio sistema nel quale si fa un po' all'interno e un po' all'esterno. Voi volete fare tutto all'interno? Allora, non vogliamo fare tutto, perché tutto sarebbe uno stabilimento probabilmente due volte più grande, però vogliamo integrare sempre più produzione interna. Bulgari vede l'artigianato interno una garanzia di autenticità, una garanzia di qualità. Ecco, ci dobbiamo interrompere per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi, anche perché poi il dottor Babin ci parlerà delle opportunità di lavoro che si creeranno in Bulgari, cioè vi diremo dove mandare il curriculum. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea con Jean-Christophe Babin, amministratore delegato di Bulgari. Stavamo dicendo che nell'ambito di questa cascina dell'orefice che state costruendo a Valenza sono anche previste 300 assunzioni, il che vuol dire sostanzialmente raddoppiare la struttura produttiva. Ma quale tipo di personale voi cercate? Innanzitutto degli artigiani, in quanto in termini di struttura manageriale, fra i due stabilimenti di oggi abbiamo già una struttura molto esperta, molto competente. Quindi artigiani ma non manager, manager ce ne sono già troppi. Ma no, allora, ci sono sempre opportunità per i manager, però è chiaro che avendo oggi due siti abbiamo già una struttura manageriale completa. Quindi per noi l'importante e lo scopo di questo nuovo stabilimento ovviamente è di incrementare la nostra capacità produttiva, di farlo ovviamente in modo estremamente qualitativo però altrettanto efficiente, e quindi quello che rappresenta la maggior parte dei 300 posti di lavoro che vogliamo creare sono posti veramente di artigianato, ed ecco perché creiamo anche la Bulgari Academy nel... Quindi una struttura di formazione all'interno dello stabilimento produttivo. Che non si sostituisce ovviamente a delle scuole o raste sulle quali ci possiamo appoggiare, ci sono sempre appoggiate, però che ci aiutano a riuscire a trovare 300 persone in un arco di tempo abbastanza breve. Non quindi se in questo momento ci ascoltassero delle persone che hanno professionalità nel campo dell'arte orafa, forse potrebbe essere interessante mandare curriculum a Bulgari. Ma diciamo che noi desiderosi di aprire questo nuovo stabilimento durante l'estate 16, quindi pochi mesi, è chiaro che stiamo cominciando guardare sul mercato per cercare di identificare, individuare le persone che non necessariamente conoscono già l'arte orafo, però le persone che hanno questa... Quindi ragazzi che si vogliono formare come orafi. Esatto, persone, perché non siamo ingenui, sappiamo benissimo che nel bacino... Lo devo dire anche a tutti gli aspiranti giornalisti che conosco, non fate gli aspiranti giornalisti, non fate i giornalisti che non si guadagna niente, andate in Bulgaria, imparate a fare gli orafi e vi troverete un mestiere. Esatto, un bel mestiere per di più, perché ogni giorno si possono creare delle cose bellissime, meravigliose, che non è detto in tutti i mestieri. Senta, quindi... ci interrompiamo un attimo perché c'è una scheda che abbiamo preparato sull'affascinante storia di Bulgari. Il top dell'oreficeria italiana si chiama Bulgari. Diffusa ovunque nel mondo, è però ancora interamente prodotta nel nostro paese, fra Valenza e Roma. La Maison è stata fondata nel 1881 da Sotirios Vulgaris, cognome poi italianizzato in Bulgari. A Roma debuttò esponendo le sue creazioni in una gioielleria di Via Sistina. Nel 1985 aprì il suo primo negozio in Via Condotti. All'inizio lavorava l'argento, ma si dedicò ben presto all'oro. Alla sua morte gli succedono nel 1932 i figli Giorgio e Costantino, che sviluppano una particolare passione per la gioielleria e la lavorazione di pietre preziose. In breve, il marchio Bulgari si afferma come gioielliere d'eccezione per una selezionata clientela italiana e internazionale. Nel 1960 Bulgari si allontana dalle rigide regole della scuola francese e crea uno stile proprio ed originale, ispirato al classicismo greco-romano e al Rinascimento italiano. Negli anni 70 vengono aperti nuovi negozi a New York, Ginevra, Monte Carlo e Parigi. È l'inizio dell'espansione internazionale del gruppo. Rieccoci in linea dopo la scheda. Parlavamo dello stabilimento manifatturiero di Bulgari che si chiamerà Cascina dell'Orefice. Senta, ma se voi avete 400 dipendenti che diventano 700, vuol dire che raddoppiate la struttura produttiva. Quindi il titolo che si potrebbe fare è Bulgari vuole raddoppiare, perché se raddoppiate la struttura produttiva raddoppiate anche le vendite. Allora, io ho detto che è vero che c'è una crescita molto importante che noi prevediamo nei prossimi 5-10 anni, è altrettanto vero che ho sottolineato all'inizio che lo stabilimento avrà la capacità anche per portare all'interno una parte di tappe produttive che oggi facciamo all'esterno. Ciò detto, e crescendo, questo non toglierà lavoro ai nostri terzisti, quindi alla fine è crescita pura. Però diciamo nel processo ci sarà una parte, fa bisogno di alimentare la nostra crescita e anche di integrare alcune tappe produttive che oggi per mancanza di spazio non possiamo integrare all'interno e che riteniamo siano importanti per la nostra industria. Ma certo. Però, è chiaro che l'obiettivo di crescita è molto ambizioso. E quindi invece come obiettivi di aumento delle vendite, che obiettivi vi siete dati in riferimento al fatturato? Oggi qual è il giro d'affari della Bulgari? Oggi, a secondo degli analisti, sarebbe non lontanissima dei 2 miliardi, però è chiaro che noi non riusciamo a nessuna informazione. Vabbè, quindi sono dati circolati da parte degli analisti. E quindi voi ogni anno quanta percentuale di crescita vi siete proposti di fare? Cioè crescere le vendite del 5%, del 10%, del 20%? Non c'è mai una cifra magica, dipende molto dall'anno, del contesto. Senta, l'obiettivo nostro è crescere più dei concorrenti, questo è chiaro. Senta, ci interrompiamo un attimo per la seconda parte della storia di Bulgari. Negli anni 80 Bulgari entra nell'orologeria ed in Svizzera viene fondata Bulgari Time. Paolo e Nicola Bulgari, figli di Giorgio, diventano presidente e vicepresidente dell'azienda. L'espansione internazionale prosegue a ritmi serrati e negli anni 90 si allarga al settore dei profumi. Nel 1995 Bulgari S.p.A. si quota alla Borsa Valori di Milano. Nel 2001 il marchio si allarga al settore dell'hotellerie. Sono gli anni del boom della borsa e dell'espansione della finanza mondiale. La famiglia e l'azienda Bulgari decidono così di entrare nel settore del private equity. Nel 2011 LVMH, gigantesca multinazionale del lusso con base a Parigi, decide di acquisire Bulgari, di comune accordo con la famiglia. Vengono acquisite le quote di controllo in mano alla famiglia e viene lanciata con successo un'offerta pubblica d'acquisto sulle azioni quotate in borsa. Nel 2012 Bulgari viene delistata. LVMH punta sulla crescita ma non rinuncia alla produzione al 100% italiana, alla sua identità e all'altissima qualità delle sue creazioni. Il progetto manifattura di gioielli di Valenza, che sarà funzionante e operativo a metà 2016, è il coronamento di questa strategia. Rieccoci in linea, stiamo ancora parlando con Jean-Christophe Babin, amministratore delegato del gruppo. Dicevamo che gli analisti stimano che dal 2012 a oggi, in 4 anni, dopo essere stato comprato dai francesi, Bulgari sia praticamente raddoppiata. Quindi vuol dire che ci sono anche molti investimenti da parte della holding. Bulgari investe sui fondi, nel senso che LVMH ha ricomprato l'azienda. Da quel momento in avanti è stata la Bulgari a autofinanziarsi con il suo cash flow e quindi investiamo molto, è vero, abbiamo incrementato gli investimenti a livello dei media, abbiamo quasi raddoppiato l'investimento media in 4 anni, voi anche negli investimenti produttivi piuttosto che investimenti commerciali, parlo lì delle boutique, ad esempio lo scorso anno abbiamo rifatto da AZ alla nostra boutique storica di Via dei Condotti con un concetto sviluppato da Peter Marino e questo concetto lo stiamo oramai estendendo a tutte le nuove aperture mondiali, quindi investimenti veramente cospicui, però tutto ciò è sempre stato finanziato dalla Bulgari, non è che la Bulgari chieda ai suoi azionisti dei soldi per finanziare lo sviluppo, noi ci teniamo veramente a portare avanti la nostra crescita sulla base del cash che generiamo. Voi avete più volte precisato che il nuovo stabilimento servirà alla produzione in Europa, ma ci sono anche altri centri produttivi fuori dall'Europa? No, noi produciamo, molto semplice, solo in Italia, quindi lì parlo della gioielleria a Roma, dei gioielli a Valenza e Solungello oggi, e la parte pelletteria che è prodotta a Firenze e la parte seta a Como. Ciò che non è prodotto in Italia è prodotto in Svizzera, e lì parlo degli orologi. Certamente. E ovviamente non dimentichiamoci dei profumi, Bulgari è un marchio leader. Comunque voi producete il vostro core business che sono i gioielli, lo producete solo in Italia. Esclusivamente in Italia, come i profumi sono esclusivamente italiani, come la nostra pelletteria è esclusivamente italiana e i nostri orologi sono esclusivamente svizzeri. Ah, perfetto. E sarà sempre così? Sì. Ecco, ma questo rallentamento della crescita dei paesi in via di sviluppo, che sono stati tra i mercati più interessanti per il settore del lusso, è una cosa che la preoccupa il fatto che ci sia una frenata della Cina, del Brasile e di altri paesi in via di sviluppo? Ma è certo che è una preoccupazione per il nostro delegato, in quanto uno preferisce sempre un GDP a più 8 più 9% che non un GDP a più 6% nel caso specifico della Cina. Ciò detto, anche se il GDP della Cina sta un po' rallentando, questo fatto, non toglie nulla ad una dinamica demografica che è stata innescata oramai 30-40 anni fa, che fa sì che ogni anno ci sono centinaia di migliaia di cinesi che arrivano ad un stato economico che gli consente di accedere al lusso. E quindi anche se questo dovesse un po' rallentare, comunque la numerosità di questi consumatori potenziali cinesi, con potere d'acquisto già abbastanza importante, fa sì che rimane per tutta l'azione di lusso. Ma quali sono i mercati che vi interessano di più? Ma diciamo che il marchio come Bulgari è sempre costruito sul successo, sull'equilibrio. Non abbiamo mai cercato di diventare il marchio di, piuttosto che il marchio di un altro gruppo. Quindi noi abbiamo ovviamente una presenza forte in Europa, a cominciare dall'Italia che è il nostro paese. Abbiamo anche storicamente creato una presenza, una grande visibilità in Asia, cominciando dal Giappone e poi esponendosi in Cina, Hong Kong, piuttosto che in Australia, quindi anche in Asia il marchio è molto presente, e in America, dove il signor Nicola Bulgari è andato come pionier già negli anni 70, Bulgari usufruisce di una bellissima presenza di 25 boutique, sì, con il famoso flagship di Fifth Avenue a New York, che è probabilmente uno dei negozi più attraenti al mondo. Quindi abbiamo sempre cercato un equilibrio fra le regioni, i continenti, così che ci mettiamo al riparo della recessione di un gruppo particolare, ma uno non è mai al riparo al 100%, però equilibreremo sempre i nostri rischi. Interessantissimo, io andrei avanti a parlare con lei per delle ore, ma il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere qui, ci auguriamo di averla ospite anche altre volte. Intanto la ringrazio. Grazie mille Filippo. A presto.